Letture di Radio 24. In tempi di crisi delle vocazioni e di messe senza fedeli in tanta parte dell'Occidente, c'è forse un modo per riempire le chiese, far sì che alle funzioni, e magari non solo a Natale, sia eseguita musica di Johann Sebastian Bach. Lo notava domenica scorsa Welt am Sonntag, un bel quotidiano domenicale tedesco di qualità, citando l'autorevole opinione di Nikolaus, conte de la Fontaine, e di Arnon Kur, prestigioso direttore d'orchestra. Bach, dunque, può aiutare la Chiesa? Il conte di Arnon Kur ne è convinto. Perché, spiega, la sua opera è assolutamente compiuta e resta sempre attuale. Perché Bach ha espresso in musica la religione più pura, come nel perfetto Weihnachts Oratorium o in tante cantate, e perché è sempre stato capace di scrivere e comunicare, con le sue note, ogni campo delle emozioni e della sensibilità umana. Perché non c'è alcun campo della musica, concerti, cantate, suite per solisti, che egli non abbia composto al meglio. Eseguiamo dunque Bach in chiesa. Forse un buon consiglio anche per Papa Benedetto XVI, chissà. Anche perché un sondaggio appena uscito ci dice che nella sua terra natale, la Germania appunto, la maggioranza dei fedeli, 53 su 100 contro 46 circa, si dice determinata a trascorrere il Natale imminente senza andare alla messa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tarquini, Riempire le chiese con Bach, dalla Repubblica del 19 dicembre.